6. Ascolta e controlla. 1. Hanno molte idee. 2. La casa non ha un giardino. 3. Abbiamo il quaderno a casa. 4. Che cosa avete in tasca? Abbiamo le monete. 5. Cosa hai in borsa? Ho un quaderno e una penna. 6. Hanno il dizionario? No, non ce l'hanno. 7. Giuseppe, hai un documento valido? Sì, ce l'ho. 8. Avete un telefono? Sì, ce l'abbiamo. 9. Hanno il dizionario? No, non ce l'hanno. 10. Dove hai la valigia? Ce l'ho in macchina.